La storia e la memoria di Dino Pesole. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avare vecchio dice, ahimè, così non va. Vedo chi non ricorda questo famoso motivetto di Rodolfo De Angelis? Era il lontano 1933 e allora la crisi con cui bisognava fare i conti era la grande crisi del 29. Crisi, un termine, una realtà con cui ora, anche oggi, occorre fare i conti, come in molte altre occasioni della nostra storia. La storia si ripete dunque? In realtà, se guardiamo a come si sviluppò nel nostro paese il fulgido periodo del boom economico, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, possiamo scorgervi già dei segnali, una sorta di camera di incubazione di un malessere diffuso che poi esploderà nei decenni successivi e con modalità e intensità diverse fino ai nostri giorni. Temi e spunti al centro del libro di Dario Tomasello, Ma cos'è questa crisi? Letteratura e cinema nell'Italia del malessere. Appena pubblicato dal Mulino, ne parliamo questa sera con l'autore, che salutiamo. Buonasera. Buonasera a voi. Dario Tomasello insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Messina. Crisi, benessere, malessere, che l'autore ripercorre focalizzando la sua attenzione appunto sulla letteratura e il cinema. È solo una contraddizione apparente che il malessere deflagri assieme al benessere? Nel vivo dei favolosi anni Sessanta, che prenda corpo nel momento in cui il progresso sembra attestarsi in forme di sempre più trionfale consapevolezza. Il cambiamento è troppo repentino, il successo di una generazione segnata dalle macerie del conflitto mondiale, per una sorta di calembour del destino, è appunto qualcosa destinato a non succedere mai più. È già alle spalle, mentre se ne godono i benefici. Su questo paradosso si interroga l'intelligenza italiana. Su tutti Pasolini e Calvino, da posizioni talora opposte, certo, ma non così antagoniste come si è cercato di mettere in rilievo. Calvino, i grandi registi come Dino Risi, ricordate quel bellissimo film Una vita difficile nella magnifica interpretazione di Alberto Sordi, i lucidi premonitori come Pierpaolo Pasolini. Troviamo tutto questo in quei lontani anni 60, un decennio che si chiude con la bomba a Piazza Fontana e l'inizio della strategia della tensione, strage che inaugura gli anni bui del terrorismo. Gli anni di piombo erano stati, sotto il profilo più specificamente giovanile, l'età oscura in cui l'alternativa al sistema sembrava risolversi nelle dimissioni dal vivere civile o nell'accettazione dello scontro, in un crescendo capace di sradicare amicizie, logorare il microcosmo familiare, alimentare la logica sempre più feroce dei blocchi contrapposti. Forse, però, si può dire che gli anni di piombo, una stagione bruciante dentro il tempo grande del malessere, generato dal boom economico, finiscano proprio nel momento di più alta temperatura dello scontro. Che gli anni 80 comincino negli anni 70 e che i 70 finiscano dentro gli 80 è comunque fuori discussione. Questa fase controversa della nostra storia più recente sembra iscriversi in una sorta di agonia senza fine dello stato delle cose e delle cose dello Stato, come riferisce Mario Luzzi nella raccolta Al fuoco della controversia. E allora, professor Tomasello, che cos'è questa crisi? Una crisi che, come lei scrive e come noi abbiamo appena ricordato ai nostri ascoltatori, affonda le sue radici negli anni del benessere, quindi quasi una contraddizione in termini. Beh, sì, è una contraddizione in termini apparentemente, perché in realtà esiste una crisi che probabilmente è più dichiaratamente economico-finanziaria. Poi forse esiste una crisi endemica che coglie gli elementi scaturiti dall'economia e della finanza con un momento di deflagrazione di un malessere che evidentemente covava sotto la cenere. E il passaggio dal neorealismo alla commedia all'italiana mi sembra che nell'ambito cinematografico serva appunto per verificare il momento originario di questa crisi di cui parliamo. Molto interessante, perché il suo sguardo non è lo sguardo di un economista, ma lo sguardo di un professore universitario che guarda alle sue materie, dunque alla letteratura, al cinema. E allora, nel suo viaggio, noi abbiamo citato Calvino, abbiamo citato Pasolini, i grandi registi come Dino Risi, c'è un filo conduttore che unifica le esperienze professionali e culturali di quegli anni? Sembra che il filo conduttore possa essere, nell'ambito letterario e cinematografico, la definirei una possibilità dello sguardo, forse antropologicamente italiano, anche al limite di una scaturigine leopardiana. Cioè c'è una, evidentemente una vocazione disillusa che è dell'Italia e che quindi nei momenti di crisi semplicemente verifica nell'emergenza però un'amarezza, un disincanto che sono proprio a un tempo più lungo della storia. E infatti la sua è un'analisi anche antropologica, perché lei ripercorre 60 anni di storia italiana e un libro che misura la crisi come condizione naturale della cultura del nostro paese. In qualche modo la crisi è insita nel nostro essere, questo lei vuol dire? Sì, in buona sostanza sì. Potrebbe, il rovescio della medaglia è che la sfiducia sia anche una sorta, come dire, di vocazione al fallimento e quindi parte integrante di un repertorio fatalista, che anche quello è stato considerato a torto dalla regione italiana. Però d'altra parte sembra evidente che laddove invece la crisi tocca tutti, è verificabile come uno stato di prostrazione, per esempio quello degli ultimi anni, e la condizione dello sguardo italiano ci dia la possibilità di andare più in profondità alle ragioni appunto di questo disfacimento. E naturalmente la letteratura, il teatro, il cinema vanno di pari passo con le condizioni economico-sociali di quegli anni. Certo. Non a caso il boom economico è caratterizzato anche da una forte e massiccia speculazione edilizia, come lei ricorda nel capitolo primo Dopo il boom, citando appunto Calvino e Sordi. Sordi, appunto, in quel bellissimo film che ricordavamo prima, Una vita difficile. Ce ne riassume un attimo i tratti salienti, professore? Beh, sì, il boom, il miracolo economico, che è un dato di fatto della cronaca prima e della storia dopo, però spesso si è risolto ed è stato poi riletto anche lucidamente a posteriori come non tanto l'ascesa di una necessariamente una nuova generazione, di una nuova classe sociale rampante e cosciente, quanto come l'effetto rapsodico di alcuni momenti anche di piccola corruttela, di piccolo commercio, di commercio di piccolo cabotaggio tra la politica e l'imprenditoria. Ed è interessantissimo che mentre il passaggio, come dicevo prima, tra il neorealismo e la commedia all'italiana, pensiamo certamente a Una vita difficile di Risi, ma anche a come un regista neorealista come De Sica trovi, come dire, la prospettiva giusta per leggere il momento di trauma nel boom del 63, e si attua perfettamente. Diversamente nel caso letterario è difficile trovare una continuità crudele dello sguardo tra il neorealismo e quello che viene dopo. Calvino con la speculazione edilizia sembra, seppure episodicamente, riuscirci per un momento. E poi abbiamo i casi ad esempio di Goffredo Parise e anche quello lucidissimo di Pierpaolo Pasolini, che però si collocano su altri binari, come lei stesso poi ci racconta nel suo libro. Sì, mentre Pasolini è indubbiamente punto di riferimento obbligato di una lettura oracolare, che però, mi piace dirlo, storicamente viene un po' dopo quello che già la commedia all'italiana aveva denunciato, cioè la cosiddetta mutazione antropologica del nostro paese. Il caso di Parise è il caso di un grandissimo scrittore, un po' più ai margini, e però nell'episodio narrativo del padrone riesce a offrirci uno scenario crudele, molto violento, dei rapporti di subalternità che il benessere, quasi identificandosi immediatamente con la crisi, produce e alimenta. E poi a un certo punto lei cita anche il famosissimo La notte della Repubblica, celeberrima trasmissione di Sergio Zavoli, che andò in onda a partire dal dicembre del 1989, ventennale della strage di Piazza Fontana. Ecco, in questo caso, come si inserisce questo programma che ha poi acquistato un ruolo fondamentale? Sì, beh, la televisione è stata, non solo in quel momento cruciale, grazie, insomma, ad autori intelligenti come Zavoli, ha avuto un ruolo in realtà molto importante nell'intercettare i segnali, i sintomi di questa crisi. Io parlo anche di Zafferin, l'Italia che cambia. Certo, la stessa edizione di Notte della Repubblica è un'edizione indovinata tragicamente per un momento oscuro in cui sì, cioè i 70, gli anni di piombo, la crisi è uno di quei momenti stagionali in cui la crisi è più evidente nella sua ferocia. Grazie professor Tomasello e molti auguri per il suo libro. Molte grazie a voi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li mette fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà.